Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Hey, good morning, Mr. Eastwood. Morning. Have a cigar, Mr. Eastwood. Anything I can do for you today, Mr. Eastwood? No, it's fine. I don't... Good luck tomorrow, Mr. Eastwood. We'll be praying for you. Thanks. Good morning, Mr. Eastwood. Interest you in a new suit for tomorrow? I'm fine. Thanks. Giorno qualsiasi della mia vita, come prologo. Ore 6:30. Dormo poco, non più di 6 ore per notte. E appena mi sveglio, dedico 5-10 minuti a quella rara occupazione che va sotto il nome di pensiero. A che cosa penso? A dirlo così può persino parere ridicolo. Alla fine del mondo. Non so quando e in che modo è cominciata questa abitudine. Forse non tanto tempo fa, in seguito alla lettura di un libro che per caso ho trovato sulla scrivania di mio padre, che è professore di fisica all'università, un libro tra i tanti sulla guerra mondiale. Oppure sarà stato un altro motivo, venuto chissà da dove, e poi scomparso dalla memoria, come scompare il seme una volta che la pianta è cresciuta. Questo era l'incipit dell'Uomo che guarda, di Alberto Moravia. Thank you. una manciata di minuti prima di arrivare alla pausa natalizia, una manciata di brani prima di arrivare alla pausa natalizia. Infatti si riprenderà poi il 27 di dicembre dopo aver chiuso questa seconda parte dell'ultimo giorno della settimana, seconda parte che si è aperta con i Sunset Rubdown, con il pezzo The Taming of the Hands That Came Back to Life, e poi siamo rimasti in Canada, però siamo passati alla lingua francese provenienti dal Quebec, i Pas Chic Chic, per proseguire con i Saddlefish, che hanno appena chiuso Summer Drops, un estratto dal loro ultimo album. Ora invece la volta della Svezia, una seconda produzione Labrador in questa settimana all'interno delle playlist di Eclettica per i Club 8, formazione che ha inciso un album dalla copertina il cui immaginario rimanda evidentemente agli anni 60, album intitolato The Boy Who Couldn't Stop Dreaming, dal quale vado ad estrarre Heaven. Nothing. I'm just out enjoying the morning air. It's really lovely here in the morning, don't you think? Yeah, it's lovely, Doc. Listen, we gotta load the DeLorean up and get ready to roll. How a war might save us, how a war might sense and realize that living's a battle. For all the times we cried, absorbed the lies and realized life's not a rehearsal. E dopo questa nuova stagione iniziata nel mese di ottobre arriviamo quindi ad un primo momento di pausa. Sarà la pausa del Natale, per cui ovviamente vi faccio i miei migliori auguri. Vi lascio con uno di quelli che saranno i primi nomi nuovi del 2008, un interessante duo che arriva da San Francisco. Loro sono arrivati al secondo album, il primo, lo ammetto, me lo sono assolutamente perso, che uscirà ad inizio 2008 per la French Kiss Album, che si intitolerà Visitor, dal quale io vado ad estrarre Fools. Loro si chiamano The Dodos. getting by, but he's a compromise. He's just a compromise. Eclettica, stagione numero 14, settimana numero 8, volume numero 5, indice, Moon and Moon, White Denim, Ursula Points, The Magnetic Fields, Nada Surf, Sunset Wrapdown, Pa-Shik Shik, Saddlefish, Club 8, Young Galaxy, The Dodos. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.